La vita in un film di Franco D'Assisi. Milano, Rasta. Milano. Ma perché l'avete fatta scendere da questa benedetta nave? Non ha una lira. Il marito non si sa dov'è. La signora è sua parente? È mia moglie. Marocco, Algeria. Sarà una cosa del tutto naturale. Per le leggi italiane lei è biga. Buonasera da Franco D'Assisi, La vita in un film, il programma quotidiano di Radio 24 che ragiona e racconta i film e quello che noi abbiamo visto del nostro percorso di vita dentro una pellicola. Oggi parliamo di integrazione, parliamo di questo tema che è stato trattato molto spesso, soprattutto in anni recenti dal cinema. Lo abbiamo fatto partendo da un film invece di qualche anno fa, quasi 20. Esattamente il film del 1992, anche se ha avuto una genesi piuttosto lunga, quindi i fatti a cui si riferisce affondano le radici a una ventina di anni fa. Il film si intitolava L'articolo 2, chissà se qualcuno di voi se lo ricorda. All'epoca ebbe un discreto successo di critica e anche notevole stampa, perché si fece molto parlare attorno alla vicenda vera raccontata da Maurizio Zaccaro, il regista di quel film, appunto L'articolo 2, e che oggi è il nostro ospite, perché raccontava un caso di bigamia. Era la prima volta che succedeva in Italia di trovarsi di fronte a una sentenza di un tribunale abbastanza pilatesca, tutto sommato, per un uomo che era stato raggiunto nei pressi di Milano anche dalla sua altra moglie, sempre dal Maghreb. E questo fu un caso al quale la giustizia italiana si trovò e l'affrontò anche in maniera abbastanza disorganizzata, senza strumenti. E come capita in questi casi, quando si è disorganizzati e senza strumenti, la sentenza fu, come dicevamo, abbastanza particolare. Noi oggi parleremo di integrazione facendovi ascoltare, come sempre, anche le clip di tanti altri film del genere, che hanno raccontato il genere, ma chiediamo ai nostri ascoltatori, 800 24 00 24, il numero per intervenire, il centralino è già aperto e, come sempre, tanti biglietti per il cinema sono già a disposizione dei primi tre ascoltatori che chiameranno. Dicevo, vi chiederemo di sapere, di vedere se in qualcuno di questi film più o meno recenti avete visto, scorto, individuato un pezzo della vostra storia personale o di qualcuno che conoscete, o ancora più in generale, qual è il vostro atteggiamento rispetto al cinema che ha raccontato questo tipo di storie? Vi piacciono di più raccontate in chiave di commedia, raccontate in chiave di cronaca, come un po' anche il caso del film di Zaccaro, raccontate in chiave di dramma? Ecco, 800 24 00 24 per parlare di integrazione qui alla vita in un film su Radio 24. E allora, noi dicevamo, abbiamo ospite Maurizio Zaccaro, e con il regista che poi ha avuto un percorso di grande successo anche come regista di film per la TV, ricordiamo recentemente il suo adattamento del libro Cuore di Edmondo De Amicis, tanto per dirne uno, ma insomma è stato sicuramente diventato poi un grande regista di successo televisivo. Però appunto Maurizio Zaccaro si trovava di fronte a questa idea, a questo caso di bigamia trattato in maniera abbastanza insufficiente dalla legge italiana. Qual è stata l'idea che ha ispirato il film? Lo abbiamo chiesto a Maurizio Zaccaro. Guarda, è stata una genesi abbastanza complessa, ma ispirata a un fatto realmente accaduto nell'89 a Bologna, dove si stava dibattendo un caso fra uno dei primi, diciamo, chiamati così stracomunitari, che aveva in Italia due mogli. Poi mi ero messo a scrivere questa sceneggiatura sulla base del risultato della sentenza, che ho trovato sorprendente. Noi parliamo di un caso di bigamia in Italia nell'89, una sceneggiatura scritta nel 91, quindi parliamo di una cosa di 20 anni fa, chiaramente, no? Quindi diciamo che le leggi non erano ancora pronte a dibattere un caso come questo, non c'erano delle normative. Sta di fatto che comunque i giudici salomonicamente decisero di sentenziare quanto segue, cioè che lui poteva tenersi due mogli a fatto che una fosse in una casa e una fosse in un'altra, e così rendevano legale il sogno di qualsiasi amante, no? Che può avere gli stessi diritti di una moglie, quindi nell'ipocrisia totale anche delle leggi. La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolga la sua personalità. Questo dice l'articolo 2 della Costituzione. Non si intende la famiglia, forse? La famiglia del signor Cadav con le sue due mogli, i suoi figli. C'è da vergognarsi. Non finisce qui, faremo ricorso, porteremo questo caso in televisione. Ecco, la minaccia era: porteremo questo caso in televisione, 1992, chiaramente un film figlio dei tempi, però un film anche con grande poeticità, con grandi momenti. 800 24 00 24, attendiamo le vostre telefonate, i vostri interventi qui alla Vita in un Film. Parliamo oggi di integrazione, ci piacerebbe ovviamente che a telefonare fossero anche cittadini stranieri magari sul nostro territorio, perché il tema dell'integrazione è tra l'altro un tema molto caldo, ancora oggi, a 20 anni da quel film, e questo è uno dei temi che abbiamo trattato proprio con Maurizio Zaccaro. Allora chiediamo al regista di raccontarci un po' come mai 20 anni fa era già andato su un tema così. Tutti dicono che è stato in anticipo sui tempi. Maurizio Zaccaro. Ma che l'articolo 2 sia stato in anticipo sui tempi, quello me l'hanno detto tutti dopo, ma io non avevo coscienza al momento di fare una cosa in anticipo, come sempre succede in questi casi, quando uno realizza un'opera del genere non è mai cosciente che lui è in anticipo sui tempi. Dopodiché è successo quel che è successo. Di sorprendente è che l'altro giorno, diciamo non più di 20 giorni fa, c'è stata un'altra sentenza simile, dove appunto un altro immigrato è stato accusato di bigamia semplicemente perché si era risposato con un'altra donna italiana, pur avendo già una moglie marocchina. Adesso, che questo sia giusto o non sia giusto, questo non è a noi dirlo. Quello che invece ricorda l'articolo 2 è semplicemente la Costituzione italiana, dove appunto si garantisce che l'individuo è sacro in qualche modo, no? Soprattutto anche nelle formazioni sociali dove si sviluppa la sua personalità. Allora, a quel punto è chiaro che uno si deve porre anche delle domande e dire: vabbè, ma se questi hanno queste usanze, questi costumi, cosa dobbiamo fare noi se sono qua in Italia? Proibirglielo oppure dirgli che lo possono fare? Questa è un po' la contraddizione di tutti i discorsi. E allora noi da Maurizio Zaccaro passiamo ai nostri ascoltatori. All'800 24 00 24 c'è in collegamento Stefano da Udine. Buonasera Stefano. Buonasera, buonasera. Allora, quale film racconta l'integrazione per come la vede lei, insomma? Io recentemente ho visto un bellissimo film, secondo me, di Clint Eastwood, che è Gran Torino, che parla proprio di questa integrazione del mondo cinese negli Stati Uniti. È richiamato molto un po' episodi abbastanza recenti anche della mia vita, di integrazione, amici che si sposano con parenti o comunque cose molto interessante, e quindi questo mi è rimasto molto impresso, anche questo tipo di messaggio, ecco, che hanno lasciato alla fine, no? Con certo, la difficoltà iniziale e poi piano piano l'entrare nel cuore delle persone. Ecco Stefano, mi è piaciuto molto. Anche se sono d'accordo con lei sulla, ovviamente sulla qualità del film, anche se è un Clint Eastwood, forse questa volta davvero gigioneggia un po' anche nel suo ruolo, ma è sempre molto efficace, e il film è un film di cuore sull'America di oggi. Forse la cosa particolare, Stefano, è che qui si tratta più di resistenza quasi che non di integrazione, perché Clint Eastwood, il suo personaggio, è un personaggio che si trova quasi straniero in casa, fra virgolette, no? In questa Detroit ormai semi-abbandonata, nella quale appunto l'etnia cinese ha preso posizioni, spazi, e lui si sente un po' assediato in un certo senso. Sì, però poi comunque alla fine mi piace vedere come finisce. Comunque, cioè è lui che viene integrato in un certo senso, diciamo. Alla fine, in un certo modo, l'integrazione è avvenuta. Assolutamente, no, sono d'accordo con lei. L'integrazione avviene, come dicevo, è lui in un certo senso che si integra e fa un passo importante che forse ognuno di voi deve pensare seriamente a fare, è quello di spogliarsi di determinate sovrastrutture e cercare l'altro anche appunto nella conoscenza, perché altrimenti chiaramente non se ne esce. Stefano da Udine porta a casa il cofanetto Wasù, ormai celebre, 5 serate di grande cinema qui alla Vita in un Film, quindi buon autunno cinematografico per Stefano. La vita in un film. Come mai non abbiamo neanche un amico bianco? Come mai non abbiamo neanche un amico nero? Come sono contenta di vedervi. Certo, è proprio vero che hanno il ritmo nel sangue. Mamma! Forse possiamo conoscerci e rispettarci e convivere in maniera civile. Hai una storia con Nadine? Dai, ti prego. Hai una storia con Nadine! Te ne devi andare. Dai. Ora! Portarti un bianco in casa? Ma non esiste. Piacere, Carlo. Ci deve essere un motivo se hai scelto di andare con una con la moglie di uno che lavora con me. La nera. Oh, bella donna. Bella. Il fatto di sesso hanno una marcia in più. È la sorella di mia moglie, lascia stare e vattene a casa tua. Tornatevene voi a casa vostra! Senti Elena, non è che le cose nella vita sono sempre bianche o nere. Volevo dire che ci sono sfumature. E questo era Fabio Volo, Bianco e Nero di Cristina Comencini, anno 2007. Un film molto molto interessante che affronta il grande scarto e la grande ipocrisia anche che spesso si trova in chi si riempie la bocca di integrazione etnica, teorica, e poi frana clamorosamente all'atto pratico, come è il caso appunto in questo film di Elena, il personaggio interpretato da Ambra Angiolini, professionista, sposata, che lavora in un'organizzazione che si occupa dell'Africa, assolutamente tutta per bene, ma quando suo marito Carlo, appunto Fabio Volo, che è completamente disinteressato al suo mondo, si invaghisce di questa bellissima ragazza di colore, tutte queste certezze sull'uguaglianza da parte di Elena vanno un po' a farsi friggere. Parliamo di integrazione alla vita in un film. 800 24 00 24, siamo partiti da un film che è L'articolo 2 di Maurizio Zaccaro, nostro ospite. Sentiamo invece cosa rappresenta l'integrazione al cinema per Michele da Torino. Buonasera. Buonasera Michele, buonasera. Voi. Ma giusto per fare due risate vi racconto questa cosa. Mi sono trovato in una situazione molto simile a Il mio grosso grasso matrimonio greco, non so se vi ricordate questo film. Assolutamente sì, grande commedia divertente, leggera, ma molto molto così, diciamo, azzeccata, no, sul tema. Esatto, un mio caro amico diciamo ha iniziato un rapporto che poi porterà a un matrimonio tra breve con una ragazza sudamericana. Ci siamo trovati noi piemontesi, no, con i nostri modi di trattare le malattie in modo, come dire, casereccio, a discutere con lei e i suoi metodi, no, di cura delle malattie casereccie. Mi faceva ridere perché usava per qualsiasi cosa il miele, un po' come il protagonista, il padre della protagonista del film, usava quella specie di spruzzino, no? Se vi ricordate, che chiamava Vetrix, esatto. Pulivetro liquido praticamente. Esatto, e quindi mi faceva sorridere, no? Intorno al tavolo noi che descrivevamo i nostri metodi naturali, la calze intorno alla gola, piuttosto che, non so, la castagna in tasca contro il raffreddore, e lei qualsiasi cosa, ma era basato con il miele. Allora mi faceva sorridere questa cosa, volevo dividerla con voi. Ci ha fatto molto piacere Michele, e noi abbiamo anche da far ascoltare una clip del grosso grasso matrimonio greco. Stavo pensando ieri sera, la sera prima che mia figlia si sposa con Ian Miller, che la radice della parola Miller è una parola greca. Miller viene dalla parola greca Millo, che significa mela. Come molti di voi sanno, il nostro cognome Portokalos viene dalla parola greca Portokali, che significa arancia. Dunque, allora, qui stasera abbiamo mela e arancia. Siamo tutti diversi, ma alla fine siamo tutti frutta. E questo era Il mio grosso grasso matrimonio greco. Ci sono due biglietti per il cinema per Michele da Torino. Noi torniamo al nostro ospite Maurizio Zaccaro. A 20 anni di distanza dal film L'articolo 2, la situazione dell'integrazione in Italia non pare molto cambiata, nel senso che forse 20 anni fa si pensava che il problema fosse di inadeguatezza legale, che ancora, insomma, le leggi non riuscivano a recepire un fenomeno in continua trasformazione. 20 anni dopo forse ci si poteva aspettare qualcosa di più. E allora sentiamo il parere su questa questione di Maurizio Zaccaro. Sì, sono perfettamente d'accordo con te, ma semplicemente perché c'è molto più sospetto, c'è molta più paura, c'è molta più incertezza, ci sono meno sicurezza nel futuro, ecco questo. E allora la gente non fa nient'altro che chiudersi, e chiudendosi, secondo me, si sviluppa un errore clamoroso, perché, insomma, nel confronto con gli altri che ci si arricchisce, nel mettere appunto in discussione anche i propri valori, di capire gli altri cosa vogliono, cosa fanno, come la pensano. Cioè, il fatto di stare chiusi in una casa e vedere semplicemente quello che ti propina un telegiornale, che poi di che telegiornali parliamo, allora a questo punto è un po', insomma, una chiusura sempre più intollerabile, nel senso che non si può vivere in questo modo, chiusi a chiave, e discutere e giudicare, no? E allora noi andiamo all'800 24 00 24, che è sempre aperto alle vostre telefonate. Parliamo di integrazione alla vita in un film. C'è in linea Leonardo dalla provincia di Vicenza. Buonasera Leonardo. Sì, buonasera. Senta, io volevo riferire di 3 film che utilizzo in ambito educativo. Ecco, lei che mestiere fa, Leonardo? Io sono insegnante alle scuole medie e nella mia parrocchia animatore dei ragazzi delle superiori. Allora, noi a scuola media, come progetto integrazione, facciamo vedere ogni anno in terza media il film Sognando Beckham. Certo. È un film leggero, però fa vedere l'integrazione di questi indiani. Tra l'altro, nel comune in cui insegno ci sono parecchi ragazzi dell'India. Certo, tra l'altro lì, Leonardo, c'è anche un'altra integrazione che si persegue, che è quella fra i sessi, perché c'è questa ragazza che vorrebbe giocare a pallone, ma non è un po' un Billy Elliot al contrario, no? Cioè, Billy Elliot voleva fare la danza e l'Inghilterra di quegli anni, dei Thatcheriani, insomma, non glielo permetteva. Qui invece questa ragazza indiana vuole giocare a pallone. Sì, sì, giustissimo, giustissimo. Mentre per i ragazzi della quarta e quinta superiore noi facciamo vedere La canzone di Carla, che è un film piuttosto forte, che è anche questo abbastanza datato, e poi il film, oddio, se mi sfugge un attimo solo, La canzone di Carla e l'ho detto in segreteria prima. Ma non c'è, forse era bianco e nero, ma non importa, non c'è problema, Leonardo. Grazie per i titoli, che poi sono sempre consigli, anche perché ci sta ascoltando. Anche Leonardo passerà un paio di serate al cinema con La vita in un film. E noi andiamo avanti, perché all'800 24 00 24 c'è un'altra ascoltatrice, questa volta Buscera, spero di aver pronunciato bene il nome, da Verona. Buonasera. Sì, buonasera. Ho pronunciato bene? Abbastanza, sì, Buscera. Ah, Buscera, ok, insomma, si impara sempre qualcosa. Allora, lei, mi pare di capire, non è italiana. No, io sono del Marocco, maghrebina. E quindi ci interessa particolarmente la sua visione del cinema italiano, soprattutto di come ha raccontato questo tema dell'integrazione. Ecco, io, grazie a Dio, sono perfettamente integrata. E da quello che vedo, insomma, con i miei coetanei, noto molto che attraverso il cinema si conoscono proprio le realtà diverse. Quindi, dato che nella società di oggi ci sono molti pregiudizi e stereotipi verso il diverso, io sono convinta, anche per esperienza personale, che appunto grazie al cinema si possa appunto conoscere l'altro senza appunto mantenendo quelle distanze che l'essere umano ha di per sé, insomma. Quindi, insomma, lei dice che il cinema può svolgere una funzione importante in questo senso, mettendo in risalto le contraddizioni, ma anche i momenti innegabilmente di integrazione che esistono. Assolutamente sì, perché è normale avere paura del diverso, come capita agli italiani verso di noi, anche noi magari abbiamo paura verso appunto ciò che non conosciamo, ciò che è diverso da noi. Quindi penso proprio che il cinema sia proprio uno strumento validissimo da usare. Soprattutto volevo anche fare l'esempio del film Casablanca, uscito qualche anno fa, e appunto parlava della storia di un nordafricano andato in Francia perché voleva appunto realizzare questo suo sogno di farsi un ristorante in una barca, e appunto faceva vedere come questo appunto extracomunitario si rapportava con i francesi, raccontando loro appunto della sua terra e del suo sogno. Certo che bisognerebbe fare qualcosa per loro. Qualcosa come? Qualsiasi cosa, l'importante è che li tiriamo fuori da qui. Cosa dici, Sandro? Non c'è niente da ridere, vuol dire che non te ne frega niente. Ti piacerebbe vivere in casa loro? Io sto Corrado, lui resta, io resto. Lui via, io via. Queste erano le parole tratte dal film Quando sei nato non puoi più nasconderti, di Marco Tullio Giordana, e il ragazzino è proprio un esempio di questa sorta di catarsi che succede. Figlio di industriale bresciano benestante, si trova a vivere una terribile avventura, cade in mare da una barca, viene tirato su e salvato da una carretta del mare piena di clandestini, e qui diventerà amico di due giovani romeni che poi chiederà a suo padre, avete sentito questo passaggio, di adottare. Insomma, forse dai giovanissimi parte anche un po' un segnale di esperienza e di, diciamo così, di possibile integrazione che vada un po' oltre le barriere. Il film che citava prima la nostra ascoltatrice, che ci ha chiamato, Buscera, non era Casablanca ma era Couscous, proprio la storia di questo uomo che da tanti anni vive in Francia e vuole crearsi il suo ristorante su una barca. È un film straordinario che ha vinto il Leone d'Oro al Festival di Venezia con la regia di Abdellatif Kechiche, uno dei registi, insomma, anche trapiantati in Francia ma di origini maghrebine, sicuramente più efficaci. Noi abbiamo in collegamento un altro ascoltatore all'800 24 0024, è Marco da Roma. Buonasera Marco. Salve, buonasera. Allora, quale film su questo tema? Ma a me è venuto in mente, ascoltando, mi sono messo da poco in collegamento, ascoltando, mi è venuta in mente quella chicca di film di 50 o 60 anni fa con Spencer Tracy, insomma, e Indovina che viene a cena, un film per tutti, per la famiglia, molto, molto, molto carino, molto simpatico, perché ha osato, così, 50 o 60 anni fa, insomma, portare una tematica molto pesante, quella in una famiglia bianca di presentare praticamente uno di colore che vuole sposarsi la figlia, ecco. Beh, questo, certo, questo Marco è un film caposaldo di questa struttura, anche se qui più spostato sul fronte dell'integrazione razziale. Allora in America era ancora una conquista da ottenere. Io ricordo anche film più recenti americani, mi viene in mente Jungle Fever per esempio di Spike Lee, cioè film che hanno raccontato come il bianco e nero in America non è che cioè non è sempre stato Obama, insomma, ecco, ci sono voluti tanti anni e ai tempi di Indovina chi viene a cena, anche se lì ha messo straordinariamente in commedia, la cosa era ancora un po' da ottenere, però l'humus culturale nel quale la cosa si svolgeva era quello. Invece le integrazioni forse ancora più difficili sono quelle fra culture, dove ci si porta appresso, arrivando cittadini stranieri in un altro paese, ci si porta appresso un bagaglio di esperienze, di modi di fare, di modi di essere, che diventano poi difficili proprio da impiantare nel nuovo tessuto. Grazie anche a Marco da Roma. Noi andiamo a ascoltare un'altra clip prima di passare alla chiusura. Ma le piace vivere in montagna? Qui sono pastore, berger. Andando a pensare ai forestieri, pensare ai nostri problemi, sì. Euro lo paese, un andamento diverso. Ci sono delle necessità locali. Andamento. Lo paese è sfinito, un si è messo là. Per evitare grane sarebbe meglio fare più attenzione ai confini. Venite voi da lezioni le mie capre, così sapranno dove mangiare. A me la parola tolleranza non piace. Se tu devi tollerare qualcuno, non c'è senso di uguaglianza. È bellissima questa riflessione sulla parola tolleranza, che ovviamente noi giudichiamo un valore positivo e ci mancherebbe altro, però se andate a vedere bene l'etimologia, ecco, tollerare qualcuno non è integrarsi. Noi con questa clip abbiamo voluto chiudere la nostra trasmissione, la clip di Il vento fa il suo giro, il film caso di 2 anni fa di Giorgio Diritti, partito dal Cinema Mexico di Milano e poi ha fatto davvero il giro dei festival internazionali, e qui l'integrazione fra un francese e dei piemontesi, sembrerebbe la cosa più semplice del mondo, ma tutto sommato forse ogni cittadino è straniero quando non è a casa sua. Grazie per averci seguito qui alla Vita di un Film. Torniamo lunedì, vi diamo ovviamente gli auguri di un buon Ferragosto. La Vita di un Film prosegue ancora per 2 settimane.